dai luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora ragazzi, finalmente siamo tornati in onda. Sì. Buon 2020. Sì, ho paura. Allora, vorrei cominciare così. Dobbiamo tirare una riga, anzi tirare una linea. No, perché non è bello iniziare il 2020 così. Vabbè, scusate, Capodanno è passato da poco. Per favore, allora, Beppe, che ci chiudono. Dobbiamo tirare una linea, sì, con l'anno sulle passato. Cose, sì, sulle cose che ci hanno fatto schifo del 2019. Usti. Dobbiamo buttarci alle spalle questo anno, ma soprattutto dobbiamo fare dei cambiamenti, altrimenti non si cambia mai. Quindi vi faccio delle proposte. Io cambierei da quest'anno. Vorrei cominciare a piegare le magliette col metodo Marie Kondo, come Alessandro Longoni. Sì, è un ottimo metodo. Cioè, io prendo una cosa da voi e voi da me. Io voglio cominciare a leggere le statistiche di Riccardo Po, cioè interessarmi alle statistiche. Un po' di più alle ricerche universitarie che individua Riccardo sul web. Sì, e poi voglio cominciare a parlare come Andrea Roccabella. Cioè, non parlare più praticamente, il nostro regista. Voi. Cosa mi dite? Voi cosa volete? Allora, io vorrei, vediamo un po', da Riccardo imparare. Che cosa? Forse un po' più la precisione sugli orari. Che ecco, perché che sono sei. Un ritardatario puntuale al lavoro. Ecco. Cronico, ecco, vorrei imparare questo da Riccardo. E da Beppe cosa imparo? Vediamo un po'. Cucinare, perché sei un bravo cuoco. È vero, il sei tuo manzo all'olio è meraviglioso. Hai cucinato sotto Natale un manzo all'olio veramente molto buono. Va bene, poi invece cosa cambiamo? Tipo il codice del PIN del telefono? No, qualcosa no, di... Cambiamo qualcosa no. di folle. Io vorrei riuscire a pulire casa, definitivamente. Cioè, no, dire, è vero, cioè, no, è da un anno che non la pulisco, ragazzi. Capisci quelli sono i nostri problemi, pulire casa. Ma fai schifo, ma... Io, guarda, c'è il colera in casa mia, è una cosa intoccabile, mi fa schifo a me. Mi fai sentire meno solo, effettivamente. È perché vivo con una donna, quindi bene o male un minimo di decenza c'è. Allora, perché questo? Perché è difficile cambiare qualcosa se continui a comportarti nello stesso modo, Albert Einstein, eccetera. Adesso è così. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare uno shock, cioè noi oggi parliamo di cambio vita. Cambio vita, sì, perché il luogo comune di oggi su Off Topic è anno nuovo, vita nuova, mi sembra calzatissimo. C'è quel momento nella vita, ma anche in metropolitana, quando chiacchieri con l'amico che non vedi da tanto tempo, caspita, però a me, io sì, lavoro, faccio il mio lavoro da impiegato, però mi sono rotto le scatole, voglio cambiare vita, voglio fare lo scrittore, voglio fare l'attore, voglio fare il regista, voglio viaggiare per il mondo. Ma è chi ti frena? Ma chi ti frena? Fallo. Se non te stesso? È vero, se non sei felice di quello che stai facendo, cambia. Però, molte volte uno dice, sì, ho capito, facile dirlo, ma io come faccio? Ho un mutuo, ho una fidanzata. Dire il fare c'è di mezzo il mare, esatto. Tiriamo fuori ho il qua. Mutuo cointestato. Ecco, esattamente. Stiamo parlando di Alessandro Longoni sempre. Sì, mutuo cointestato, cari ascoltatori, mi spiace, insomma, potete fare qualcosa, però è molto difficile. Esatto, ognuno di noi ha degli impegni o non può mollare facilmente. Quante volte ti è capitato di sentire una storia di cambio vita? Tantissime. Hai sentito queste storie bellissime di persone che dicono basta, io ero, non so, oppressa sul lavoro, insoddisfatta, mio marito non mi amava e poi dopo sono diventata una bellissima attrice. Tra l'altro, eccetera, a proposito... Però tu, nella tua impotenza mediocre, dici, ma io non ce la farò mai. Quindi, come riusciamo a scardinare oggi questo problema, questo ostacolo? Queste gabbie sociali, gabbie mentali, gabbie che ognuno di noi ha. Tra l'altro, mi ricordi, parlando al femminile, caro Alessandro, che lo Stands for Center of Longevity... Ti prego. L'hai richiamata, Beppe, eccola qua. Dichiara che le donne sono molto più predisposte, naturalmente, a cambiare percorsi di vita. Quindi, non mi stupisce. Esatto, sono più capaci perché, ovviamente, sempre stando sui luoghi comuni, sono multitasking, noi sappiamo fare solo una cosa e linearmente. E giù di luoghi comuni sulle donne. Il 2020 le donne è come il 2019. Sono più propense al cambio vita, quelli proprio drastici. Mollo tutto e scappo via. Forse quelle più capaci di svegliarsi una mattina e dire ok basta, tu non ti amo più, me ne vado. Ecco. E invece l'uomo resta lì, no? L'uomo resta la classica immagine dell'uomo sul divano. Allora, se stiamo dicendo castronerie oppure se vi ritrovate in quello che stiamo dicendo, ragazzi, scriveteci al nostro numero WhatsApp, direi. Che non è cambiato quest'anno, no. È sempre lo stesso. Esatto. È sempre lo stesso, è 340 8303 758. Mandateci anche dei WhatsApp audio, che semmai li mandiamo anche in onda. Sul cambio vita, la mail è offtopic@radio24.it, la pagina Facebook offtopic-radio24 e poi su Instagram, che stiamo viaggiando molto bene, ringraziamo Giulia Marziali. Ma cosa ti incensi? La nostra social media manager. Parte se no, non si può. Instagram offtopic24. Ciao mondo, benvenuti in un nuovo video, in una nuova avventura. Mi trovo ancora in Guatemala. Oggi è un giorno molto particolare perché il primo di novembre è il Dia dello Squertos, quindi il giorno dei morti, e mi trovo nel centro culturale del Guatemala per quanto riguarda questa festa, ovvero Todos Santos. Ciao mondo, dopo avervi spiegato come arrivare qui a Machu Picchu spendendo il meno possibile, ora è il momento di portarvi a fare un giro. Uff! Ciao mondo! Allora, oggi vi porto in Africa. Qui sono in un lago vulcanico, il lago Tsitsiva, e sono in Madagascar. Scusa Claudio, che è il nostro ospite, com'è il lago? Tsitsiva. Non l'avevo capito. Là. Claudio Pellizzeni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ciao. Buon ciao, anno Claudio. Tra l'altro. Buon anno anche a voi ragazzi. Allora, anno nuovo, vita nuova, esatto. Però ti voglio chiedere una cosa. Ma tanti viaggi, ti prego. Tantissimi, proveremo a farne tantissimi, portaci tu okay. A sto punto. Perché noi abbiamo bisogno di girare pagina e si usa sta cosa del Capodanno? Cioè perché non tipo il 4 marzo, il 2 di ottobre, non decidiamo di cambiare? Ma io sinceramente farei il Capodanno a settembre, perché in realtà l'anno in qualche modo finisce a settembre con la fine dell'estate, fin da quando eravamo piccoli. Sei ancora legato un po' alla scuola. Sì, ma la scuola, ma comunque anche il lavoro, perché fai le vacanze un po' più lunghe, cioè per me il nuovo inizia a settembre. Poi è vero, c'è il Capodanno, che è questa convenzione e si cercano delle novità. Ben vengano le novità. Allora, ricordiamo i nostri ascoltatori: Claudio Pellizzeni, blogger, travel blogger, possiamo definirti così? Non ce l'ho ancora fatto neanche io a definirmi, perché esatto. Faccio talmente tante cose. Promotore, ideatore del blog, sì. E del canale YouTube Trip Therapy. Yes. Quindi viaggiare e in qualche modo farsi una bella terapia di vita. Sì, sì. Attraverso sì. Il viaggio. Cura l'anima. Il corpo dipende, però l'anima la cura sicuramente. Tu hai la classica storia che si legge sulla homepage di Repubblica, nella colonna di destra, che dici: cazzo, quello ha avuto l'idea che avrei voluto fare anch'io una vita. Lavoravi in banca? Sì, 10 anni. 10 anni hai lavorato in banca. Sei laureato alla Bocconi. Lavoravi in banca. A un certo punto ti sei svegliato una mattina, hai visto una sera, un tramonto, se non sbaglio, è stata giusto. La causa di tutto questo. Bene. E hai detto: ma senti, sai che c'è? Io cambio vita. Anno nuovo, vita nuova, bam. Parto per il mondo, parto a scoprire le meraviglie del mondo. E sei partito per un viaggio di 1000 giorni. Yes. Che ha attraversato quanti paesi? 44 paesi, 5 continenti. Partendo da quale? Il primo che della lista e l'ultimo? Allora, da Piacenza, il primo che sono entrato è stata la Svizzera, perché sono andato su a nord per poi andare verso l'est, la Polonia, la Russia. E l'ultimo è stata la Francia, perché è Piacenza su Piacenza. Attraversando però anche l'Australia, passando dall'Australia, se non sbaglio. Sì, li ho toccati tutti e 5. Cosa hai disegnato? Hai via la traccia del... si è creato qualcosa, un disegno? Sì, ce l'ho, credo che sia l'immagine di copertina della mia pagina Facebook ancora. Sì, o comunque si trova comunque sul sito, esatto, sì, sul sito c'è tutta la mappa di quel giro lì. E ovviamente la particolarità è senza aerei, quindi ho dovuto attraversare gli oceani su un cargo battente bandiera liberiana. E ti giuro che era veramente con la bandiera liberiana. Ma quindi scusami, tu eri col tuo diario di bordo, un po' capito, un po' maledetto, un po' poeta maledetto, no? No, scrivo sul cellulare. L'immagine un po' romana 2.0. E un luogo comune l'abbiamo scardinato. Perché la particolarità è che tu, dopo aver letto il libro di Terzani, che bene o male tutti quanti hanno almeno sfogliato, un indovino mi disse, hai detto: beh, senti, l'aereo lo lasciamo da parte, usiamo tutti i mezzi non convenzionali, o meno comodi del dovuto. Esatto, sì, era un concetto di riappropriarsi del concetto proprio di tempo. Perché se l'avessi fatto velocemente sarebbe stata una vacanza, uno sfizio, qualcosa che in realtà non avrebbe avuto senso, mollare un lavoro per fare un anno in giro per il mondo così. Prendersi 3 anni, girarlo senza aerei, dandosi un obiettivo, una regola molto rigida e molto dura da rispettare, soprattutto in Asia e gli oceani, perché fare 26 giorni di Oceano Pacifico, divertente, mica tanto. Ecco, per fortuna ci ho scritto un libro. Riappropriarsi di questo concetto, il tempo, delle frontiere da guadagnarsi, da superare, era alla base di questo progetto di vita, perché mi avrebbe dovuto restituire un nuovo me stesso in qualche modo. Tra l'altro tu hai fatto anche la Transiberiana, quindi il tempo trascorso per tutta questa enorme nazione che è la Russia. Sì. È stato proprio, cioè, che cosa ha voluto dire riappropriarsi del tempo? E sudarsi i posti. Quanto tempo ci vuole attraversare un'intera nazione? Noi di solito siamo abituati ad andare da A a B con l'aereo, ok? Veniamo catapultati in un nuovo mondo dopo il nastro di consegna bagagli, no? Come appunto succede sempre in aereo. E non ci accorgiamo di quello che c'è in mezzo. Perché le popolazioni cambiano? Perché le religioni cambiano? Perché i tratti somatici cambiano? Le frontiere che una volta erano fisiche, quindi catene montuose, oceani, laghi, fiumi, adesso sono politiche. Soprattutto magari in Africa, per esempio. E ti fai certe domande che di solito dai per scontate. E tu passavi tra l'altro dalla frenesia di Milano, perché lavoravi in una banca importante, grossa e famosa di Milano. E avevi anche un ruolo importante all'interno della quadro banca. Direttivo. Il quadro direttivo. Ed eri nella frenesia, no? In cui siamo immersi invece noi tre, ad esempio. L'ho vista stamattina in metropolitana. Mi sono visto qua in via Monte Rosa. Esatto. Sì, qua vicino. Vedevo tutta sta gente. Le cravatte. Sì, ma poi la gente è presa male. Non me la ricordavo più. perché adesso cerco di prendere la metropolitana fuori dall'orario di punta, certo, ovviamente. E c'è stamattina è capitato così. Facce triste. Che effetto ti ha fatto? È un viaggio nel tempo, ma veramente. Cioè, mi sono rivisto e gli ho detto. Ma no, hai un giudizio guardandoci da fuori? No, giudizio no. Non sono nessuno per emettere un giudizio. E il viaggio ti insegna a non emettere giudizi. Però alcuni mi hanno fatto pena, quello sì, ma più che altro perché ho visto la loro sofferenza nell'essere ipnotizzati da uno smartphone, di non salutare nessuno, di rispondere in maniera scortese se uno ti tocca, cioè il nervosismo. Mi hanno fatto pena perché vedo in loro una sofferenza latente. Senti, quindi, parlando di giudizio, c'è qualcuno che Piacenza a un certo punto ha detto ma quelle, adesso non so fare il piacentino, ma che le fa niente, va in giro tutto il tempo, giro, non lavora, giro, non lavora. Quindi un po' di giudizio c'è ancora. Hai voglia tantissimo. Piacenza, nessuno è mai profeta in patria, tantomeno una cittadina piccola come Piacenza. Chiaro, c'è tanta gente che mi sostiene, ma anche tanta che mi dice dietro di tutti i colori. Senti, ma domanda delle domande, perché poi alla fine si arriva lì. Come fai a sostenere questo? Cioè, adesso bellissimo chi viaggiare, chi ti paga? C'è Soros, esatto, sapevo. No, dividerei la mia storia in due parti. Allora, quando sono partito per il giro del mondo, ho investito tutta la mia liquidazione e la vendita dell'auto. Quanto era, scusami, non per farmi gli affari. Allora, al netto dell'estinzione di finanziamento dell'auto avevo 12.800 euro. E con quello sei riuscito a sostenere il viaggio di 1000 giorni, no? Sì, però c'è da dire che dopo 6 mesi sono stato scoperto da Alicia Colò e quindi ho cominciato a lavorare per la televisione. Ok, quindi, hai avuto una fonte di reddito, diciamo. Ho azzeccato le tempistiche per quanto riguarda internet, quindi chiaramente ho iniziato anche a collaborare con siti e con aziende che gli interessava magari appunto avere il loro prodotto nei miei video, nei miei articoli, eccetera. E quando sono tornato in Italia nel 2017 ha iniziato il periodo d'oro del blogging, e quindi chiaramente essere in quel momento uno dei travel blog più seguiti d'Italia, in Italia, con una storia molto particolare che quindi mi ha dato anche un risalto mediatico di un certo tipo. Il libro che ho scritto, il primo, L'orizzonte del giorno un po' più là, è stato un caso editoriale, perché anche perché avevi come obiettivo quello di spendere 15 euro al giorno, sì, tipo, esatto, Pechino Express un pochino il concetto. Sì, non l'ho mai visto, però mi hanno detto che è più o meno simile. Okay. Un sacco di gente mi ha detto dovresti partecipare. Il detox da televisione è una delle specificità dei travel blogger. Sì, sì, sì. Senti, allora vorrei farti una provocazione partendo da un aneddoto. Emilio Salgari, o Salgari, non si è mai capito come si dice, è stato un viaggiatore virtuale, uno che è rimasto nella sua stanzetta a scrivere i suoi libri e non è mai uscito. Allora, ti volevo chiedere, viaggiare rende migliori e poi in cosa? Non è detto. Non è assolutamente detto che renda migliore. Cioè, io non credo nel viaggio redenzione, non credo che il viaggio risolva tutto, anche se ho chiamato il mio blog Trip Therapy. Credo che il viaggio semplicemente ti pone di fronte a molte più domande. Hai anche evidenti le risposte, però se ti fai domande sbagliate continuerai ad avere risposte sbagliate. Quindi non è detto che migliori, perché io ho visto gente che va in viaggio ed è peggio di quanto va a casa. Parliamo per esempio di un tema molto comune, no? Uh-huh. Adesso, il razzismo. C'è gente che è razzista a casa, non è che va in giro e non lo diventa, cambia, anche se il viaggio, certo, dovrebbe insegnarti che il razzismo è una delle più grandi beep. Cazzate, esatto, cazzate, cazzate, si può dire, no? Sì, okay. Hai trovato in giro pure dei razzisti nei tuoi viaggi. Hai voglia, assolutamente, quindi non è assolutamente detto che ti renda migliore, dipende tu quanto sei recettivo, quanto sei pronto. Ho visto gente andare in viaggio e comportarsi peggio che a casa. Che questa è la grande differenza tra turista e viaggiatore, come li definisco io. Comunque ragazzi, stiamo parlando di anno nuovo, vita nuova, cambi di vita. E stiamo praticamente dimenticando il più grande cambio di vita della storia del Novecento, penso. Ma che, Zorro? No, di più. No, Wolverine? No. Parliamo di Mauro Repetto. Ancora Allora, scusami Riccardo, no, da quanti anni volevi fare questa cosa? Da una vita, da una c'è vita. La quota trash di Riccardo Poli. Cresciuto a Pavia della casa dei genitori Elio e Margherita. Ma Slimer, cosa si chiamano facendo? Slimer, è la storia di Mauro Repetto, ragazzi. Attenzione, frequenta il liceo scientifico Copernico, dove a causa della bocciatura di Max Pezzali si ritrova ad essere suo vicino di banco e a scrivere canzoni con lui. Nel 92 ottengono il successo con Hanno ucciso l'uomo ragno, nel 93 pubblicano Nord, Sud, Ovest, Est, nel 94 pubblica il suo ultimo album con gli 883, attenzione perché è il remix 94 contenente i successi dei primi due album in versione dance. Ce l'avevo, l'ho trovato in palestra a scuola, al liceo. Ma stai scherzando? Per terra, senza custodia, l'ho preso, messo in tasca e mi sono vergognato di averlo in casa. Comunque l'ultima sua apparizione con Max Pezzali risale a Roxy Bar di Red Ronnie nel 14 gennaio del 1994. E poi Mauro Repetto che cosa fa? Dove va? Ti prego, diccelo. Dopo essersi ritrovato per lavoro, Max saluta l'amico dicendo: ok Mauro, ci vediamo lunedì alle 14. Questo però replica: Max, io veramente parto per l'America, vado a Miami. Dalla sua scelta di lasciare il gruppo, il padre di Repetto disse: altro che uomo ragno, tu hai ucciso la gallina dalle uova d'oro. In quindi effetto, un sostegno così da parte della famiglia. Si trasferisce negli Stati Uniti d'America alla ricerca di una modella, Brandy, di cui si era innamorato dopo averla vista in una rivista. Brandy. Cioè, senza... dopo averla vista in una rivista, sì. Ma è vera questa cosa. È verissimo, sì. Wikipedia. Mauro conoscerà la ragazza. È verissimo Wikipedia? Sì. Adesso sì. Sai Mauro, che puoi correggere anche tu le voci. Ci sono le fonti in Wikipedia. Sì. Mauro conoscerà la ragazza, ma sfortunatamente non riuscirà a conquistarla. Arriviamo ai giorni nostri. Parte quindi alla volta della Francia, dove ritenta la strada del cinema con vari cortometraggi, ma anche questa volta non ottiene il successo sperato. Risponde quindi a un annuncio e inizia a lavorare come animatore a Disneyland Paris. Poi dopodiché nessuno ha più ci sono più notizie. Sì, ha fatto il cowboy a Disneyland, ragazzi. E poi il ti prego dimmi che non si interrompe adesso. No, dimmi che ce l'abbiamo qua in studio. No, non ce l'abbiamo. Al telefono. No, neanche al telefono. Però ragazzi, secondo me questa è la più grande storia di cambio vita in assoluto. Cioè, adesso ovviamente Mauro avrà trovato una strada bellissima e la sua vita è ottima, però letta così fa ridere. Sei come dire il leader, sì, di una, cioè, band pazzesca, hai fatto che ha soldi, fatto milioni di euro che non c'erano ancora negli anni 90 e improvvisamente finisci. Però scusa, è così che si fa, cioè si molla quando si è al top, no? Cioè tu a un certo punto te ne sei andato quando, no, avevi un grande stipendio, eri quadro e a un certo punto hai detto basta, io me ne vado, basta. Mollo tutto. Comunque ragazzi, sì, per evitare querele da Repetto, poi dopodiché è diventato imprenditore, sì, ha fatto dei figli, ha fatto anche degli spettacoli da teatro, organizza eventi, è un professionista tutto tondo. Senti, ma Claudio, tu ti stancherai mai di questa vita? È una domanda che mi sto iniziando a porre. Allora, io adesso passo circa 300-320 giorni all'anno in viaggio. E poter stare a casa è diventato il momento vero di vacanza. Solo che chiaramente ci sono anche una serie di impegni in Italia. E sta cominciando a diventare una situazione... Allora, se dico stressante, poi c'è la gente che viene a prendere per i capelli. Ma non fai un cazzo la mattina, esatto, la sera, però la realtà è che continuando a essere in viaggio, continuando a pigliare aerei, passi da una stagione all'altra, da un jet lag all'altro, da un cibo all'altro, eccetera, avanti e indietro. Io l'anno scorso ho preso qualcosa come 73 aerei, ho visitato 18 paesi e ho fatto 310 giorni via. Senti, scusami, sì, che deodorante usi? So che sembra una domanda banale, ma che deodorante usi? Attenzione, lo compro in loco. Stick, cose. Stick. Scusa, in realtà oggi Claudio è atterrato dal Bhutan. Sei appena arrivato, tra l'altro, qua con noi su YouTube. Potete vederci. Sì. Abbiamo un canale YouTube Off Topic, esatto. 24. Venite a darci un'occhiata. Potrete vedere l'enorme zaino di Claudio. Ma è enorme perché ci sono dentro tanti regali per casa. Ecco, a proposito, vediamo cosa c'è nello zaino. Ti prego Claudio, hai parlato di gente in giacca e cravatta. Noi vogliamo che tiri fuori adesso da questo zaino tre oggetti, sì, anche i primi che trovi sopra. Allora, se puoi puoi anche rovesciarlo, noi non ci opporremo, no, al per fatto nulla. Che tu puoi rovesciarlo. Vai, prego. Tra l'altro potrebbe avere dei funghi tossici, sì, che escono fuori, malattie, cose. Adesso c'è una zanzarina che comincia a muoversi, esatto, e siamo morti. C'è un paio di pantaloni della tuta, quelli per viaggiare in aereo. Da quanto non li sono messi i jeans? Almeno oggi sporchi, okay, ma mi sono messo perché in aereo tattico si mette la tuta per star comodi, tutto, giusto? E poi allora, c'è una busta intanto rossa. Cos'è sto disco volante? È un sacchetto rosso di plastica con un disco, qualcosa di tondo. Sì, sono i piatti nepalesi. Ma bellissimo. Per quando vado a fare le grigliate nei boschi con i miei amici. Eccolo, sono bellissimi. Guarda, tutti divisi. È plastic free. Un piatto non di si latta. Può andare a fare le grigliate con i piatti di plastica, ma con i piatti di acciaio. Sono del latta, acciaio. Potete sentire? Sì, mi permetto, ho messo le mani nello zaino. Ovviamente ha un taccuino, targato Wired. E immagino che sia il tuo taccuino di viaggio. O sì, delle spese. Sì, sì. Scusami, voglio fare un esperimento. Posso? Me lo passeresti? Se hai il coraggio, posso aprirlo? Lo sto chiedendo a te. È personale. Apro a caso e leggo una riga. È personale. Sì, occhio. Ma, no, occhio in che senso? No, cos'è? Ma non ci sono pensieri di viaggio lì. Magari conti e tipo cose. Così. Questa cosa si possono leggere? Esatto. Si possono leggere le cose che sono. C'è il nome di una donna. Usti. Sì. Sì. No, beh, poi. No, perché leggici tu una pagina a piacimento. Dai, apri la tua caso e guarda, dici cosa. Qui c'era Nepal, Dubai, Emirates, Scalo, Dubai, Kathmandu, partenza 21-19 giugno. Sì, ma forse c'è qualcosa di non organizzativo, qualcosa di sentimentale? No, guarda, qua sono tutti i libri, conti, documenti e conti. Che tra l'altro, da buon bancario sei una mente molto razionale e organizzata, giusto? Sì, assolutamente. Conti, l'ho perso. Progettazioni, fa l'Excel. Fai l'Excel non più. Non esageriamo. Odio Excel, però diciamo che su questo qua ci sono tutti i conti che faccio, eccetera, cioè per starci dentro, per riuscire a organizzare le date, riuscire a incassare tutti gli eventi, i viaggi, eccetera, che comunque le proposte arrivano in maniera costante, no? Ti arriva, dai, ci sei questi giorni per andare a vedere questo posto? E l'istinto ti dice sì, poi devi guardare se effettivamente ci sei. Sì, perché cosa dice trolli? Attenzione, ci sono ancora sto andando a guardare dentro la borsa. Allora, non lo so, posso? Puoi guardare. Aspetta, guardiamo cosa. Ma è la macchinetta che fa il caffè? È una divinità bhutanese. No. C'è un fallo. Scusami, è una divinità. Allora devo descrivere un attimo la situazione. È una divinità bhutanese. No, ma ti lo puoi rimanere tranquillo. Abbiamo un fallo di legno in studio di colore rosso con un disegno di un drago sopra. Verde. Tra l'altro sembra che abbia due piedi, vedi? Questi qua sembrano, facciamo vedere. Sono i testicoli. Guardatelo su YouTube. Sono i testicoli. Grazie. Sembrano due piedi, guarda. E questo sarebbe che cosa? Una divinità, hai detto? Sì, allora il nome non me lo ricordo. Però viene messo in casa per scacciare i demoni cattivi e per aiutare la fertilità. Sì. E c'è un paese in Bhutan in cui ci sono tutti questi. Si chiama Fallolandia in qualche modo. Sì. E sono disegnati. Fallolandia. Ci sono falli ovunque. Da Disneyland a Fallolandia. Ecco, quindi a favore c'è un fallo delle... tipo tatuato con un drago. Una specie esatto. di. Esatto. Senti, ma Claudio, la cosa che mi stavo chiedendo è: che cos'è il superfluo per te? È tutto quello che non ci sta nello zaino. Ah, ok. Proprio così. E parti con cosa ci deve essere assolutamente nello zaino? Sennò non la ti carta igienica. La carta igienica? Sì. Che ti salva il culo. Adesso detta proprio. In tutti ti i fa casi. Anche da cuscino quando è ancora grossa. Ma come da cuscino? Sì, quando è grossa, sì, te appoggi. Sì. Tra l'altro, prima hai citato Verdone con il cargo battente bandiera liberiana. Però tu effettivamente hai preso appunto un cargo dall'Australia per la costa ovest degli Stati Uniti. Ho no? preso da Hong Kong all'Australia, dall'Australia al Canada. Dal Brasile al Senegal. Perfetto. La mia domanda è: ma come si fa a prendere un cargo così a caso? Come si fa? Cioè sei imbucato alla festa? Cioè, no, perché... non esiste più questo. Ah. Non esiste più. Allora, lo leggo nei libri, lo vedo nei film. Ma com'è che si fa a salire su un cargo? La così? Prima volta devi passare attraverso un agente per forza. Cosa vuol dire agente? È un intermediario che ti organizza. Fa avere tutte le carte. Poi una volta che ci prendi la mano e capisci che carte ci vogliono, puoi anche organizzarti in maniera autonoma contattando le compagnie. Però se c'è qualcosa di sbagliato stai a casa e sono molto cari. Non hai nessun rimborso, quindi la prima volta è meglio, anche se costa circa il 30% in più ed è molto caro viaggiare sui cargo, affidarti a un intermediario almeno la prima volta. Senti Claudio, allora apriamo velocemente la questione culinaria. Il problema nostro di noi italiani è che andiamo in giro per il mondo, luogo comune, non si mangia bene come si mangia a casa. Uh-huh. A casa in Italia. Sì. La pizza peggiore che hai mangiato dove? Bhutanese. Ah, proprio l'ultima adesso, quella che hai assaggiato. Ma perché arriva nel ricordo magari. Certo. La pasta peggiore? Boliviana. Il caffè peggiore? Caffè peggiore non ricordo. Quello del bar qui sotto adesso. No, è buonissimo. In strada, in giro, non possiamo dire, non diciamo il nome. Non mi ricordo, no, sinceramente non mi ricordo il caffè peggiore. Perché appena arrivato qua, Claudio, lo dobbiamo dire, ci ha detto ragazzi ho bisogno di un caffè. Ha preso l'espresso, l'ha annusato, l'ha bevuto, era l'uomo più felice del mondo. Senti, invece una popolazione particolarmente antipatica, che dici mamma mia, sti cose sono antipatici. Ma allora, devo dire che ci ho messo il mio, cioè ho avuto un po' di colpa perché l'ho visitato in un periodo sbagliato, delle piogge eccetera, ma i ticos costaricani non c'è stato molto simpatia reciproca. C'è da dire che lì sono arrivati talmente tanti europei, talmente tanti americani a investire soldi eccetera, che ti vedono come un bancomat con le gambe, quindi un po' che c'è stato poco tempo, un po' il periodo sbagliato, un po' magari anche l'assetto mentale sbagliato, non mi sono trovato molto bene, però per il resto sempre tranquillo. Non ho un, diciamo, quando ho fatto il cammino di Santiago dall'Italia, sì, la mesata che ho fatto in Francia non è stata proprio accogliente. Con i cugini, diciamo. Certo, con i cugini. Bisogna anche dire che, Claudio, tu l'hai fatto in silenzio, se non sbaglio. Sì, in silenzio. E rispondevi con i bigliettini. Sì. Cosa vuol dire? No, aspetta. Non abbiamo ancora detto sta cosa. Cioè, certo. Tu non hai parlato per un mese? 72 giorni. Non ha parlato per 72 rotti chilometri. Ma scusa, cosa ti sei detto da solo? O per dormire come facevi? E scrivevo. Ti scrivevi? Sì, sì, scrivevo e mostravo. E non hai detto una parola? Niente. I social li usavi? Sì. E quindi perché non era l'ho fatto una rottura per voto, dare un messaggio di torniamo all'ascolto. Quindi chiaramente essendo un travel blogger, comunque allora, c'è un'azienda che mi pagano per veicolare un messaggio, che non mi piace dire la parola influencer, però oggi si usa questa per rendere l'idea, il concetto. Allora dico, perché non posso lanciare un messaggio positivo per i fatti miei senza essere pagato? Ok. E ho detto torniamo all'ascolto, perché quando sono tornato a girare il mondo, quello che mi sono accorto è che la gente non ascolta più. Non è una contraddizione il fatto che i social rimanevano in Ma se no come facevo a comunicare questo messaggio? Cioè io volevo dimostrare che anche un travel blogger che fa, che poi sono un chiacchierone, lo vedete, sì, sto zitto 72 giorni, ascolto le storie che poi ho riportato nel libro eccetera, l'ho fatto proprio per questo. Ho detto per io per due mesi ho parlato abbastanza, mo sto zitto. E invece il silenzio assoluto? In che senso? Ovvero sparisci per tre mesi, nessuno sa niente di te e nessuno saprà mai niente di quei tre mesi? Succederà? Potresti avermi dato un'idea, vedi? Allora, ricordando i due libri di Claudio Pellizzeni, Il silenzio dei miei passi è quello appunto, sì, del viaggio di Santiago di Compostela, l'ultimo tra l'altro dei libri usciti, e l'altro è L'orizzonte ogni giorno un po' più in là, che invece narra i mille giorni in giro per il mondo. Chiudendo l'intervista, Claudio, ti chiedo, tu la mandi le cartoline a casa ogni tanto? A mia nonna. A tua nonna? Anch'io le mandavo a mia nonna. Ti chiedo di lasciarci una cartolina veloce veloce a noi di Off Topic. C'è una frase, quindi? Sì, diciamo di sì. Beh, a me piace sempre lasciare questa frase, che è sempre dalla parte dei sogni. Vabbè, allora rovino tutto dicendo, mi raccomando, ci sentiamo la settimana prossima. Ma ricordatevi che non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva al cambiamento. Ciao, ciao. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.